Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quelli che stanno qua non li possiamo tenere strascicati per le strade. Non può andare avanti così. Cioè, tu non puoi averli alla stazione, al mezzo alle... Quindi la soluzione, a mio giudizio, da trovare in modo molto rapido è quello di un meccanismo in cui permetti loro, quelli che sono in attesa della richiesta di asilo, eccetera, di fare qualcosa, un servizio alla comunità, anche banalmente mettere a posto ciò, le aree dove stanno, ma non possono passare il tempo dalla mattina alla sera a aspettare che arrivi qualcosa. Perché non esiste, perché è disumano. Che ne pensate, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Questo naturalmente era Renzi, che ha parlato moltissimo anche oggi, come al solito oggi, in specifico in un'intervista al Corriere della Sera, in cui fra i tanti argomenti ha toccato anche quello dei migranti. Come avete sentito, ha detto i richiedenti asilo devono rendersi utili, non possono stare strasciconi tutto il tempo, bisogna anche che noi come governo ci diamo velocemente da fare, perché possiamo metterli nelle condizioni, insomma, di rendersi utili per la comunità. Questo è uno dei tanti temi sui quali potete scrivere le vostre opinioni questa sera qui a Effetto Notte. Si ricomincia con questa puntata, pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per i vostri commenti, oppure il numero per gli SMS e per i WhatsApp, che è il 349 238 6666. Dicevo, ha toccato molti altri argomenti, però protagoniste sicuramente di oggi sono le donne, in particolare Theresa May, che ufficialmente è la successora al primo ministro uscente della Gran Bretagna, David Cameron. È Theresa May, attuale ministra dell'interno. E poi c'è anche per la prima volta in Vaticano una vice portavoce del Vaticano che è donna. Quindi insomma una serie di novità che riguardano le donne. In realtà quella della Theresa May non è proprio un'assoluta novità in Gran Bretagna, chi non ricorda naturalmente Margaret Thatcher. Questi alcuni dei tanti temi, parleremo anche di banche, nel senso che sembrava quasi l'argomento tabù oggi a Bruxelles, perché il centro doveva essere il tema centrale Brexit, però in realtà è stato tutto il tempo sullo sfondo e anche un po' di più il tema delle banche. Quindi mentre voi riflettete, per scrivere i vostri messaggi sui vari temi della giornata alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero 349 238 6666, vediamo che giornata complessivamente è stata. Banche, trattative a Bruxelles, Renzi si mostra ottimista, accordo a portata di mano, dice, il problema non è l'Italia. Gran Bretagna torna una donna a Downing Street, Theresa May sarà premier mercoledì per transitare Londra fuori dall'Europa, svolta dopo la rinuncia di Litsom. La strage di Dallas, il presidente americano Obama domani sarà ai funerali degli agenti uccisi, poi incontrerà in forma privata i familiari delle vittime. Sud Sudan, anche l'ex leader dei ribelli dice basta alla guerra dopo che il presidente Salva Kiir aveva dichiarato un coprifuoco unilaterale in seguito a giorni di sanguinosi scontri nella capitale. L'omicidio del nigeriano affermo Amedeo Mancini, l'ultra che ha ucciso Emmanuel Chidi Nnamdi, vuole donare i suoi beni alla vedova. Il GIP ha stabilito intanto che deve restare in carcere perché potrebbe reiterare il reato. Roma, la sindaca Raggi promette guerra al problema dei rifiuti, intanto tornano le fiamme gialle in Campidoglio, indagini sulla metro C, 13 indagati per truffa, anche un ex assessore. Vaticano cambia il portavoce, Barca al posto di padre Lombardi, è una donna, una giornalista spagnola, per la prima volta come vice. Calcio Euro 2016, vale 40.000 euro al giorno Pellè, i cinesi fanno shopping anche di campioni. Partiamo quindi dalla riunione a Bruxelles dei ministri dell'economia e delle finanze per discutere di Brexit, seppure, come vi dicevo, un altro tema in realtà era presente sullo sfondo. Le banche europee, le banche italiane non sono all'ordine del giorno di Eurogruppo e di Ecofin. Ufficialmente non in agenda, il tema non poteva però non essere affrontato dai ministri dell'economia e delle finanze europee nella loro prima riunione dopo il trauma della Brexit. Il ministro dell'economia Padoan da Bruxelles assicura comunque che il governo sta lavorando per predisporre strumenti precauzionali e che i risparmiatori saranno salvaguardati. Con la Commissione europea, ricorda Padoan, c'è un confronto in corso per mettere in sicurezza le banche italiane, in particolare Montepaschi. E intanto è lo stesso presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem a rassicurare: la crisi delle banche italiane non è acuta, anche se poi ammonisce la soluzione va trovata entro le regole che sono chiare. Il sostegno all'Italia arriva dalla Francia, con il ministro delle finanze Sapin che invita ad essere solidali. Più dura la posizione della Germania, con il ministro delle finanze Schäuble che invita a frenare e aspettare i risultati degli stress test del 29 luglio, anche se poi dalla stessa Germania arriva la proposta di Deutsche Bank di costituire un fondo europeo di 150 milioni miliardi di euro di fondi pubblici a sostegno degli istituti di credito europei in difficoltà, proposta che viene subito respinta al mittente dal falco Dijsselbloem. I problemi delle banche vanno risolti dalle banche e nelle banche. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Poi ci torneremo su questo argomento per capire quali sono le ricadute positive o meno sui risparmiatori italiani. Passiamo alla Gran Bretagna. L'attuale ministra degli interni, come vi dicevo, Theresa May, sarà premier da mercoledì al posto del dimissionario David Cameron. La svolta si è avuta dopo il ritiro di Andrea Leadsom, che è la ministra dell'energia, appunto ritiro alla gara per la leadership dei Tories e del partito conservatore. May si impegna a cercare il miglior accordo possibile, dice, per traghettare la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea. Conferma che Brexit significa Brexit e che si dice convinta che alla fine sarà un successo. Torna quindi una donna a Downing Street dopo Margaret Thatcher e ne parleremo tra poco. Ora negli Stati Uniti, domani il presidente Barack Obama sarà a Dallas per i funerali dei poliziotti ammazzati e troverà un clima di fortissima tensione. Sarà uno dei viaggi più difficili per il primo presidente nero degli Stati Uniti, nella stessa Dallas dove 53 anni fa il sogno americano si fermò insieme al cuore di JFK. Domani Barack Obama guarderà in faccia le ferite che stanno lacerando dall'interno il paese. In un clima di grandissima tensione il presidente parteciperà ai funerali dei 5 agenti bianchi uccisi dal cecchino nero che voleva così vendicarsi delle morti poco chiare di afroamericani da parte di poliziotti. E ai familiari delle vittime Obama porterà l'abbraccio dell'America, fatta però anche di chi ora sui social incita ad uccidere altri agenti. A Detroit 4 persone sono state arrestate e a Dallas è lo stesso capo della polizia David Brown ad ammettere di aver ricevuto minacce di morte. Minacce per lui e per la sua famiglia, ancora una volta su Facebook, sulla pagina del Dipartimento di Polizia. E in questo clima, reso ancora più difficile dalle proteste del Black Lives Matter che continuano accompagnate da arresti, sta per arrivare Obama, duramente attaccato dal candidato repubblicano Donald Trump. Siamo una nazione divisa, scrive, e se lui non lo pensa, vive in un mondo immaginario. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Ancora all'estero è salito ad almeno 272 morti il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, delle violenze esplose nella capitale del Sud Sudan. Le vittime, in maggioranza soldati, includono però anche decine di civili e un peacekeeper cinese. E in serata anche l'ex leader dei ribelli sud-sudanesi Riek Machar, che oggi è vicepresidente, ha chiesto ai suoi sostenitori in armi di porre fine ai combattimenti. Machar ha parlato a iRadio dopo che il presidente Salva Kiir aveva dichiarato un coprifuoco unilaterale dopo giorni di sanguinosi scontri nella capitale. Machar ha detto di essere ancora in Sud Sudan senza spiegare esattamente dove. E siamo così alla politica italiana con Matteo Renzi, che avete sentito nell'intervista al Corriere. Oggi è tornato a parlare di tanti temi, dai migranti al futuro dell'Italia, al referendum e alla possibilità dello spacchettamento. Guardi, lo spacchettamento a mio giudizio non sta in piedi, nel senso che è una cosa che capisco. Lei dice, scusate, ma se facciamo una domanda con una scheda con scritto volete voi ridurre il numero dei parlamentari sì o no, è più facile rispondere. Se la domanda fosse secca su quel singolo punto sarebbe una cosa molto semplice, però è la Costituzione in ballo e la Costituzione ha delle regole e il fatto che ci siano delle regole porta a dire alla stragrande maggioranza dei giuristi che non è possibile spacchettare e fare un referendum alla carta. Siamo sulla politica, ma a Roma perquisizioni da parte della Guardia di Finanza in corso in Campidoglio, tornano le fiamme gialle al Comune di Roma, l'indagine è quella che riguarda la metro C per il reato di truffa aggravata ai danni di enti pubblici, 13 persone tra ex amministratori locali, dirigenti dell'epoca di Roma metropolitana e vertici di metro C, indagate anche l'ex assessore alla mobilità della Giunta Marino, Guido Improta, l'ex dirigente del Ministero dei Trasporti, Ercole Incalza. Vi dicevo la politica perché intanto la neosindaca fa una promessa, pulire Torbella Monaca, dice, che è della periferia est di Roma, dopo il video denuncia di alcuni ragazzini del quartiere romano. Fa appello anche ai romani Virginia Raggi, chiedendo loro di non lasciare i sacchetti dell'immondizia fuori dai cassonetti. Quello dei rifiuti è uno dei primi problemi da risolvere per il nuovo sindaco di Roma, che oltre alle pressioni sull'AMA, la municipalizzata che si occupa della raccolta, annuncia più controlli e multe più salate per chi sporca. Oggi la prima cittadina ha fatto visita a Torbella Monaca, quartiere periferico, teatro di un video che sta facendo il giro della rete, nel quale si vedono alcuni bambini che contano i topi attorno ad un cassonetto. Alla base dell'emergenza sono soprattutto i problemi negli impianti di trattamento dei rifiuti, ha spiegato Raggi. Gli impianti di TMB sono completamente fermi, ormai posso dire, perché per anni non è stata fatta la manutenzione. I rifiuti che entrano non riescono a essere smaltiti, l'AMA magari ritira i rifiuti, non sa dove scaricarli, è una macchina che si è completamente inceppata, va fatta ripartire. Stanotte, grazie all'accordo sul rinnovo del contratto, è stato intanto scongiurato lo sciopero degli operatori ecologici in programma mercoledì e giovedì, una protesta che rischiava di trasformare la capitale in una discarica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi torneremo a parlare di questo video e del degrado in particolare di certe zone della capitale. Siamo alla cronaca e resta in carcere l'ultra che ha ucciso il nigeriano, affermo, ma nega l'omicidio volontario. Resta in prigione l'aggressore di Emmanuel Kidinamdi, l'ultra Amedeo Mancini. Per lui il GIP di Fermo, Marcello Caporale, non ha convalidato il fermo, bensì disposto la custodia cautelare in carcere. In attesa della lettura delle motivazioni, l'avvocato dell'ultra, Francesco De Minicis, che non aveva chiesto formalmente gli arresti domiciliari per il suo assistito, ipotizza che il giudice abbia agito così perché non ritiene ci sia pericolo di fuga. Durante l'udienza nel tribunale di Fermo in mattinata, Mancini ha confermato la sua versione dei fatti, ammettendo di avere chiamato la moglie di Emmanuel scimmia africana e di essersi difeso con un pugno quando il giovane nigeriano ha reagito, ma, ha sottolineato, non avevo intenzione di uccidere. A quanto riferito sempre dal suo legale, l'ultra ha espresso la volontà di lasciare i suoi beni alla vedova di Emmanuel. Sentiamo l'avvocato De Minicis. Non ha mai avuto una lira, è un uomo che sta anche lui tra gli ultimi della terra e ha detto che l'unica cosa che ha, che è un terzo della casa colonica e della poca terra che gli ha lasciato il padre, è a disposizione della vedova di Emmanuel. Lui nega la sua responsabilità giuridica, nel suo modo e col suo linguaggio, però la responsabilità morale se la sente tutta. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E secondo quanto emerge dall'ordinanza, il GIP ha disposto che Mancini, l'ultra, resti in carcere perché dice potrebbe molestare o aggredire altri extracomunitari. Siamo ancora sulla cronaca. Un furgone portavalori con oro per circa 4 milioni è sparito nei pressi di Badia Alpino, nel comune di Civitella in Val di Chiana, vicino Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, il furgone con a bordo due autisti si è fermato per far scendere uno di loro per finire il giro delle aziende. Al suo ritorno, sia il mezzo sia il collega che era rimasto a bordo erano spariti. Immediato l'allarme dei carabinieri, che hanno ritrovato il mezzo poco lontano. Nessuna traccia del vigilantes e del prezioso carico. Subito avviate le indagini e le ricerche del vigilantes. Al via la privatizzazione di ENAV, la società che gestisce in esclusiva lo spazio aereo italiano, un'operazione da quasi 2 miliardi con il 51% delle quote che resteranno in mano al Ministero dell'Economia. E c'è una notizia anche che riguarda i musei, uno dei musei per antonomasia, gli Uffizi di Firenze, sbarrata la porta ai turisti al celebre corridoio Vasariano per ordine dei Vigili del Fuoco. Motivo, spiega la direzione degli uffici, le temperature eccezionalmente alte di questi giorni che oltrepassano i limiti regolamentari per visitatori e custodi e rendono inagibile l'ambiente oltre che le condizioni climatiche non favorevoli per i beni conservati. La novità che arriva dal Vaticano, cambia il portavoce, Barca al posto di padre Lombardi dopo diversi anni e una donna, una giornalista spagnola, per la prima volta come vice portavoce. Per chiudere il calcio c'è chi incassa dopo Euro 2016, ha le valigie pronte, adesso ufficiale Graziano Pellè lascia il campionato britannico e si trasferisce in Cina allo Shandong Luneng. Top secret le cifre, ma si parla già di 38 milioni per 2 anni e mezzo di contratto. Insomma, diciamo, calcolatrice alla mano, l'attaccante azzurro dovrebbe prendere 40.000 euro al giorno. 40.000 euro al giorno. E con questa cifra pazzesca, devo dire, fa venire le vertigini. Do un'occhiata prima di aggiornare chi sta viaggiando, i vostri messaggi che stanno arrivando sui vari temi. Leggo per esempio questi sulla dichiarazione di Renzi all'inizio, vi ho fatto sentire, i migranti, d'accordo, l'accoglienza, però dobbiamo fare in modo che si rendano utili, che facciano qualcosa, qualche attività utile alla comunità. Alessandro Morini scrive, senza dubbio sì, anche se le persone non possono costringersi a lavorare, il lavoro socialmente utile va introdotto con gradualità e prudenza. Pagina Facebook di Effetto Notte, questi messaggi. Diego dice, offensiva mediatica a 360 gradi per gonfiare la questione di migranti, cui prodest? cioè chi avvantaggia questa cosa. Poi c'è Gianluca da Vittorio Veneto che scrive al 349-238-6666, che invece è il numero per SMS e WhatsApp. Ci arriva sempre dopo Renzi, dice un gelato in premio. Edo, come può organizzare qualcosa se ogni giorno ne arrivano a centinaia, nei sistemi 1000 e ne arrivano altri 10.000? Scrive Edo. Voi continuate con le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, quindi c'è stato il quadro esauriente della giornata che vi ho raccontato, adesso cominciamo ad approfondire alcuni argomenti in particolare. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte e al numero per WhatsApp SMS che è il 349-238-6666, per lo più li vedo appunto su questa iniziativa che ha lanciato Renzi. Dobbiamo come governo pensare velocemente a come fare in modo che i migranti, finché stanno nel nostro paese e non hanno una collocazione ben precisa, si rendano utili, quindi mettiamoli nelle condizioni di farli lavorare in qualche modo, di rendersi utili alla comunità. Per esempio Alessandro dice: ma è obbligatoria questa integrazione o siamo ancora liberi di avere un pensiero diverso da quello unico? Alberto invece scrive una domanda: ma vogliamo portare qua tutta l'Africa, quand'è che basta? Certo Alberto, che bisogna capire anche, a parte la solidarietà, l'accoglienza, anche come si potrebbe fermare, diciamo. Da più tempo si dice aiutiamoli lì, ma penso che siano decenni che si dice questa cosa. Poi invece un altro ascoltatore o ascoltatrice non si firma, pare particolarmente impressionato, mi pare ovvio, da quello che guadagnerà Pelé, il calciatore, in Cina, acquistato dai cinesi, prenderà 38 milioni di euro in 2 anni, circa 40 mila euro al giorno. Dice: si trasferisce in Cina per 38 milioni, probabilmente in Cina non si battono i rigori, visto che a pagare tanto per uno che ha sbagliato il rigore ai quarti. E se la prende col fatto che l'Italia ha perso contro la Germania, e fra quelli che hanno sbagliato i rigori c'era anche Pelé. Mentre voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Note al 349-238-6666, vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata e poi cominciamo ad approfondire i vari argomenti. Renzi dice: l'accordo sulle banche con regole attuali è a portata di mano. E poi Dusselblom dice che il presidente dell'Eurogruppo: risolvano le banche da sé i loro problemi. In Gran Bretagna Theresa May sarà premier del Regno Unito da mercoledì, subito diventa leader dei Tories. La Brexit dice sarà un successo e quindi succede a David Cameron. E poi ancora Renzi che contro lo spacchettamento del referendum dice no, questa cosa, e poi cambiare l'Italicum solo dopo la vittoria del no, dice qualcuno. Insomma, continua questa polemica sul referendum, non lo spacchettiamo, e la possibile apertura sulla riforma della legge elettorale, l'Italicum. E poi per quanto riguarda la cronaca, l'ultrà che ha ucciso il nigeriano a Fermo, dice Mancini, vuole donare i suoi beni alla vedova, così dice il suo avvocato, e però secondo il GIP deve restare in carcere per il pericolo di reiterazione del reato. La strage di Dallas negli Stati Uniti: Obama domani sarà ai funerali degli agenti uccisi e poi con le famiglie per un incontro in forma privata. Nel frattempo invece a Roma la neosindaca Raggi fa la guerra ai rifiuti, aumenteranno le sanzioni, dice. Parliamo allora della riunione oggi a Bruxelles dei ministri economici, la prima riunione questa dopo la Brexit. Brexit che è stato il tema centrale e ufficiale, ma era attesa anche una discussione sulle banche europee dopo le tensioni sui mercati negli ultimi giorni e in attesa dei cosiddetti stress test, anche se prima del suo ingresso nella riunione dei ministri europei il nostro ministro dell'economia Padoan ha negato categoricamente che si dibattesse anche delle banche. Sentiamolo. Banche italiane non sono all'ordine del giorno di Eurogruppo e di Ecofin, prima cosa. Seconda cosa, ribadisco quello che ho già detto anche molto recentemente: il governo italiano sta lavorando per predisporre, e in parte già lo ha fatto, strumenti precauzionali che, come dice la parola, saranno usate solo se necessario. Questi sono i fatti. I risparmiatori saranno salvaguardati dal governo italiano. I contatti con le autorità europee continuano positivamente, come sempre è stato in tutto questo periodo. Però, come vi dicevo prima, come avete sentito anche dai titoli, Renzi, presidente del Consiglio, ha detto che l'accordo sulle banche con le regole attuali è a portata di mano. Un accordo compatibile con le regole attuali e che metta al riparo da qualsiasi problema è assolutamente alla portata di mano, quindi assolutamente sì. In tutto questo, Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao e buonasera a tutti. Ecco, naturalmente a chi ascolta interessa soprattutto sapere tutta questa questione delle banche, che ricadute ha sui risparmiatori italiani, davvero possono sentirsi sicuri, come ha detto il ministro Padoan, come ha ribadito, abbiamo sentito adesso Renzi. Beh, insomma, bisogna credere a quello che dice il nostro Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia. Evidentemente l'Italia ha predisposto già il fondo Atlante, si sta preparando a questo negoziato, o meglio, da un po' si prepara a questo negoziato che è in corso per utilizzare tutte le possibilità offerte dalle regole dell'Europa, dell'Unione Europea in tema di salvataggi bancari e di scudi, diciamo così, che possano prevedere forme di tutela per i risparmiatori e non solo. Ci sono ampie discussioni in questo momento tra l'Italia e la Commissione Europea, non tanto all'interno dell'Eurogruppo, e che sono in uno stato avanzato di negoziato, e quindi bisogna essere fiduciosi. Oggi il segnale che è venuto fuori dall'Eurogruppo, che è un organismo che appunto non aveva all'ordine del giorno, come spiegava Padoan, questo tipo di tema, però si è registrata per esempio la solidarietà esplicita del ministro francese Sapin, che ha detto massima solidarietà al piano italiano, che condividiamo. Sappiamo benissimo che c'è un problema di eccesso di derivati all'interno di alcune importanti banche tedesche come la Deutsche Bank, e quindi che il problema delle banche è un problema, sta diventando un problema europeo effettivo a tutti gli effetti. C'è un problema per esempio all'interno del Portogallo, che ha molte situazioni ai limiti del rischio esplicito. Quindi la strategia che sta usando l'Italia di utilizzare forme di derogabilità alle regole stringenti del bail-in per consentire poi di evitare che i risparmiatori debbano pagare direttamente il salvataggio di banche che fossero in difficoltà. Questo è il bail-in, no? Anche gli risparmiatori devono dare il loro contributo. Invece si sta tentando di evitarlo, anche perché quando la crisi sistemica è di livello globale ed europeo, effettivamente questo tipo di strozzatura non è conveniente. Rischia di avere contraccolpi pericolosi. Alberto, il Financial Times, il quotidiano anglosassone, ha posto delle critiche nei confronti della fragilità del nostro sistema bancario, dicendo: avete più sportelli che pizzerie. Magari è anche normale avere più sportelli che pizzerie. Ma cioè, infatti non c'è niente di male, anzi vuol dire che il credito è ben radicato sul territorio, non risultano grandi sovrapposizioni di sportelli, c'è una grande concorrenza tra banche, e questo è positivo e lo dovrebbero sapere peraltro gli esponenti del giornalismo anglosassone, che della concorrenza fa proprio il faro principale. Preferisco guardare all'articolo che ha fatto l'Economist da Italian Job, dove effettivamente sottolineava una situazione di difficoltà, ma che riguarda sostanzialmente tutta l'Europa, non solo l'Italia, di cui l'Europa deve farsi carico. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro. Grazie. Ciao Alberto. 13, guardate laggiù i topi. 14, 15, 15. 16. Aspettate, regà, faccio il video. Zitti, 16, dammi uno. 16 topi, ragazzi. 22. 22. 22. 23, 24. Cioè sono 25 topi in 5 minuti, ragazzi, vi rendete conto dello schifo a Tor Bella Monaca? E questo lo mandiamo all'ama, così vede lo schifo, e glieli portiamo a casa i topi, voglio vedere poi. Sapete che i ragazzini poi quando promettono queste cose sono capaci di mantenere. Queste sono delle immagini di cui abbiamo sentito chiaramente in radio l'audio, di un video che hanno girato appunto dei bambini, dei ragazzini in un quartiere particolarmente difficile nella zona est di Roma, che è Tor Bella Monaca, e contavano, sentite quanti topi, non so se abbiano esagerato, ma insomma sappiamo che c'è un grosso problema che riguarda la spazzatura e i rifiuti a Roma, non soltanto quello, ma questo sicuramente è molto consistente, in particolare nelle periferie, contavano addirittura più di 20 topi. Questo video, realizzato appunto da questi bambini di Tor Bella Monaca, ha fatto il giro, è stato inviato a un periodico in particolare, ha fatto il giro di tutte le testate nazionali, poi è arrivato alla sindaca, avete sentito poi nella ricostruzione, nel riassunto che vi ho fatto della giornata, che diceva qui bisogna subito mettere mano, ha promesso questa guerra ai rifiuti, anche promettendo delle sanzioni sia per i privati cittadini che sporcano, sia anche per l'azienda che deve gestire l'immondizia a Roma se non lavora, soprattutto i suoi dirigenti, come si deve. Questo video è pervenuto ha un periodico che si occupa delle periferie di Roma che si chiama La Fiera dell'Est, e direttrice di questo periodico è Federica Graziani, che saluto. Buonasera Federica. Buonasera. Quindi vi è arrivato questo video e voi avete ben pensato di farlo girare, non avreste immaginato però così tanta eco? No, in realtà non pensavamo insomma di riscuotere questo successo. Abbiamo ricevuto questo video da questi bambini, e chiaramente tramite i loro genitori, e come facciamo sempre lo abbiamo pubblicato, e poi il resto è storia, insomma. Federica, voi vi occupate proprio di quella parte di Roma, no? Dove ci sono palazzoni e degrado. Quinto e sesto municipio. Quinto e sesto municipio, ed è effettivamente così questa zona, così assolutamente abbandonata. Siamo invasi dai topi perché... Beh, ci sono una serie di motivi strutturali più che altro. Intanto noi, gli operatori diciamo ecologici arrivano dal centro carri, e quindi non abbiamo, già il tragitto è molto lungo per arrivare in sesto municipio per pulire i quartieri. In più molte spazzatrici, come sapete anche voi, non funzionano, e quindi abbiamo una carenza di macchinari e di operatori. E ancora di più il fatto che hanno applicato appunto il porta a porta in zone, ma la via successiva è rimasta la raccolta stradale, no? Quindi chiaramente purtroppo questo è il cittadino, buttano tutto insieme, no? Quindi è la mentalità, sia i funzionari, i dirigenti che devono cambiare mentalità e lavorare meglio, ma anche evidentemente, come diceva la stessa sindaca, i cittadini, i privati cittadini, no? Federica. Beh, diciamo che i cittadini, almeno nelle periferie, non sono neanche messi in condizione, no? di farla bene, la raccolta differenziata, perché noi per esempio abbiamo quartieri come Torbella Monaca e Nuova Ponte di Nona in cui c'è ancora la raccolta stradale. E la cosa succede che nei quartieri limitrofi, perché appunto non vengono a ritirare i rifiuti, li portano lì per non avere poi l'invasione di ratti, blatte e quant'altro, no? Diciamo che la colpa sta nel mezzo, ecco. Da una parte il cittadino pigro, ma dall'altra poi l'istituzione che non lo ha mai messo, no, nella condizione di poter fare una raccolta differenziata come si deve. Cioè, quindi un enorme lavoro anche da questo punto di vista aspetta la neosindaca Raggi. Direi di sì. Oggi, guardi, proprio oggi abbiamo pubblicato altre due foto per far capire il livello, no, di Torbella Monaca in particolare. Una bambina di neanche un anno seduta tra i rifiuti, perché noi abbiamo anche il problema degli insediamenti nomadi abusivi, no? Che creano ulteriori discariche. E altri bambini oggi ci hanno mandato delle foto di una macchina in cui è stata trovata una pistola. Cioè, insomma, il livello è abbastanza problematico lì. Sì. Chiaramente poi il degrado, come diciamo sempre, no, porta altro degrado. Avere, certo, un quartiere magari pulito forse porterebbe una maggiore consapevolezza, e invece i nostri bambini giocano, come avete visto appunto, tra i topi, tra l'immondizia, tra i spacciatori, tra i tossicodipendenti. Eppure siamo a Roma, Federica Graziani. Siamo comunque, insomma, qui è un abbandono ormai insostenibile, e sì, la sindaca Raggi dovrà non poco rimboccarsi le maniche. Grazie tanto, Federica Graziani, grazie direttrice della Fiera dell'Est. Buon lavoro. Mille. Grazie. Buon lavoro. Adesso, prima di lasciarci brevemente per questa pausa di ricreazione, Marco scrive su WhatsApp al 349-238-6666 un'osservazione per tutti i geni che ce l'hanno sempre comunque con gli immigrati. Ricordo che già adesso sono i loro contributi a pagare buona parte delle pensioni, ricorda Marco, a proposito appunto anche della dichiarazione che ha fatto Renzi e di altri che dicono ha ragione Renzi, devono rendersi utili. Ricorda Marco che effettivamente, vista la bassa natalità in Italia, ci sono anche la compensazione dei loro contributi. Poi c'è Paola da Sassari, dice: chi ha ordinato loro di distribuirsi così nelle città agli immigrati? Dice: sono in maggioranza anglofoni, non è un caso, sono in attesa di ordini. Giorgio: mi sembra che un certo Salvini è da parecchio che chiede le stesse cose, adesso Renzi fa il fenomeno. 349-238-6666, che è il numero per i vostri WhatsApp o SMS, oppure scrivete le vostre opinioni sui temi della giornata sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Franco Schipani, Alessandra Fiori, buongiorno. Tintarella di luna, tintarella tu l'urlate, Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte. Lo sappiamo, è veramente diciamo di rilevanza internazionale. Scrivono ascoltatrici e ascoltatori da ogni latitudine, senza esagerare, ogni tanto dalle parti più lontane, più remote, anche dal resto d'Europa. E, i vostri messaggi continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, per lo più sul frase che vi ho fatto sentire inizialmente di Renzi. Oggi ha parlato a tutto tondo in questa intervista al Corriere della Sera, fra i vari argomenti naturalmente è tornato sul referendum, sull'Italicum, sul rapporto con la minoranza, sul governo ovviamente, ma anche sui migranti, dicendo che si devono rendere utili, che non possono stare strasciconi. La gran parte dei vostri messaggi stanno arrivando su questo. Qualcuno rimane ancora impressionato di quello che prenderà Pellè in Cina, effettivamente lascia senza fiato la cifra. E ancora i vostri messaggi, dicevo, Marco da Bergamo dice: Renzi ha ragione, quello che dice è vero per tutti, non solo per gli immigrati, l'ozio avvelena l'anima. E poi Laura: mi sembra indispensabile che i migranti possano fare dei lavori utili alla comunità, farli stare così a non far nulla non è costruttivo né per loro né per chi deve lavorare e non riceve nulla dallo Stato. Vi ricordo allora, mentre voi continuate con le vostre riflessioni, quali sono le notizie più importanti della giornata e poi proseguiamo con l'approfondimento dei temi. Banche, trattative a Bruxelles, Renzi si mostra ottimista, accordo a portata di mano, dice, il problema non è l'Italia. Gran Bretagna torna una donna Downing Street, Theresa May sarà premier mercoledì per transitare Londra fuori dall'Europa, svolta dopo la rinuncia di Lidsom. La strage di Dallas, il presidente americano Obama domani ai funerali degli agenti uccisi, poi incontrerà in forma privata i familiari delle vittime. Sud Sudan, anche l'ex leader dei ribelli dice basta alla guerra dopo che il presidente Salva Kiir aveva dichiarato un coprifuoco unilaterale in seguito a giorni di sanguinosi scontri nella capitale, i morti per ora sono circa 300. L'omicidio del nigeriano a Fermo, Amedeo Mancini, l'ultra che ucciso Emmanuel Cidi Nnamdi, vuole donare i suoi beni alla vedova, il GIP ha stabilito però che deve restare in carcere perché potrebbe reiterare il reato. Roma, la sindaca di Raggi promette guerra al problema dei rifiuti, ne abbiamo appena parlato, intanto tornano le fiamme gialle in Campidoglio, indagini sulla metro C, 13 indagati per truffa, anche un ex assessore. Vaticano cambia il portavoce, Barca al posto di Padre Lombardi e una donna, una giornalista spagnola, per la prima volta come vice. Calcio Euro 2016, vale 40.000 euro al giorno, Pellè, i cinesi fanno shopping anche di campioni. Thank you very much. Questo Dudu che avete sentito è il primo ministro uscente David Cameron, britannico, ed è diventato virale sui social network lui, che appunto dopo aver annunciato solennemente ai giornalisti che Theresa May sarà lo sostituirà alla guida del paese, canticchia allegramente imboccando il portoncino di Downing Street cantando du du du du, e poi a un certo punto dicendo tra sé e sé right, ecco, giusto, va bene così, insomma, un motivetto intonato che evidentemente nel momento in cui evidentemente non ha pensato, ecco, di essere ancora col microfono acceso. Così iniziamo un po' con questo, un po' in modo colorito, questo altro tema che è appunto il dopo Cameron in Gran Bretagna, con Theresa May, attuale ministra degli interni, che succede quindi ufficialmente a David Cameron e quindi diventa la prima ministra della Gran Bretagna, la svolta dopo questo, diciamo, fine settimana un po' movimentato, denso di polemiche all'interno del partito dei Tory, dei conservatori. Andrea Leadsom, che era la sua rivale, ministra dell'energia uscente, fa un passo indietro dopo queste polemiche su chi ha figli, chi non ha figli, eccetera eccetera, lasciando Theresa May quindi il ruolo di sostituire Cameron. Avverrà questo avvicendamento il 13 luglio. Ne parliamo con Domenico Maria Bruni, che è docente di pensiero politico europeo alla LUIS, esperto di Gran Bretagna. Buonasera professor Bruni. Buonasera. È soddisfatto di questo profilo di nuovo primo ministro? Beh, l'importante è che sia soddisfatto David Cameron a questo punto. Sembrava di sì con questo di Dudu. È la cosa fondamentale. E, guardi, devo dire che Cameron fa bene ad essere soddisfatto, nel senso che è riuscito, i deputati del Partito Conservatore sono riusciti a mettere una pezza a quello che rischiava di essere un disastro, ossia il risultato del referendum che aveva spaccato il partito in maniera anche abbastanza profonda, perché la campagna elettorale è stata molto, molto accesa, anche a tratti violenti. Ma anche perché David Cameron, mi perdoni, è stato poi il grande sconfitto, no, di questo referendum, perché lui lo aveva indetto sperando quindi di rafforzarsi ulteriormente come primo ministro, pensando che poi la gran parte avrebbe votato per rimanere in Unione Europea, invece è andata diversamente da quello che pensava. Assolutamente, anche se devo dire una cosa, quando Cameron fece la promessa di indire il referendum su questo tema, non aveva altra scelta. Diciamo anni addietro i rapporti di forza all'interno del partito conservatore erano di tutt'altro tipo. E detto ciò, sì, assolutamente il risultato del referendum è stata una grande sconfitta per Cameron, e quindi l'essere riusciti a risolvere, ad accorciare i tempi nell'individuare il futuro leader del partito e quindi il futuro primo ministro è stato sicuramente un grosso successo del leader uscente. Senza che lei abbia la sfera di cristallo, professor Bruni, però il pensiero va a Margaret Thatcher, no? Che è diventata prima ministra nel 1987, per 3 mandati consecutivi è stata rieletta e poi sicuramente ha segnato un'epoca. Le sembra che Theresa May potrebbe essere su quel solco? Allora, guardi, io credo che Theresa May ha, diciamo, 2 punti in comune con Margaret Thatcher. Il primo è sicuramente, come dire, la decisione, il carattere volitivo, ecco, e la capacità di resistere alle pressioni e di non tirarsi indietro nelle polemiche. Ci sono state negli anni passati alcune polemiche anche molto, molto pesanti, ad esempio con Michael Gove, quindi diciamo da questo punto di vista è un punto di contatto importante. L'altro elemento comune in realtà e riguarda il contesto politico in generale, e cioè che Theresa May come leader del Partito Conservatore e come primo ministro si trova davanti un partito laburista molto diviso e in grossa crisi, così come Margaret Thatcher nei primi anni Ottanta. Detto ciò, credo che i punti di contatto si fermino qui, nel senso che se andiamo a vedere poi i contenuti politici, il conservatorismo di Theresa May è assolutamente antitetico rispetto a quello di Margaret Thatcher. Nel senso che Theresa May appartiene a quello che nella cultura politica inglese si chiama One Nation Conservatism, ossia una visione del conservatorismo che è molto attento alla coesione sociale piuttosto che all'individualismo, come era invece per Margaret Thatcher. Quindi credo che i contenuti politici saranno diversi. Senta, comunque adesso voglio far sentire questo passaggio. Lei ricordava l'aspetto volitivo anche di Theresa May. Sentiamo questa dichiarazione. Brexit means Brexit and we're going to make a success of it. Ecco, Brexit is Brexit. Quindi abbiamo deciso che dobbiamo uscire, si uscirà, e lei dice che, anche se tra difficoltà eccetera, sarà un successo questa uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, quando avverrà in modo definitivo, professor Bruni. Allora, anche qui diciamo distinguiamo fra l'aspetto della comunicazione e quello che è poi la sostanza delle cose. Dal punto di vista della comunicazione politica, in questo momento non può dire altro, nel senso che si esce da un referendum che è stato molto divisivo, quindi l'obiettivo è ricucire innanzitutto all'interno del partito conservatore, quindi siccome ha avuto l'endorsement anche di deputati, diciamo, che hanno sostenuto la Brexit, questa dichiarazione va inquadrata anche in questa necessità di ricostruire l'unità del Partito Conservatore. Il secondo elemento è poi ovviamente vedere che contenuti dare alle trattative per la Brexit. E lì l'accenno a dobbiamo fare della Brexit, delle trattative per la Brexit, una storia di successo, e lascia in realtà poi ampi margini di flessibilità nel determinare poi quali effettivi contenuti all'interno delle trattative bisognerà portare. Sottinteso o tradotto in termini più semplici, su qualche punto bisognerà cedere, su qualche altro si potrà puntare i piedi. Poi dipenderà ovviamente dalle trattative che verranno fatte passo passo con l'Unione Europea. Comunque, insomma, comincerà a ricoprire questo ruolo da mercoledì 13 luglio e vedremo come procederà. Grazie, professor Domenico Maria Bruni. Grazie. Grazie a voi. Buona serata. Ancora i vostri messaggi, brevemente, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Per esempio Fabio da Como scrive: se Renzi in qualche modo sta ancora pensando a un decreto salva banche, probabilmente il messaggio degli inglesi non è ancora sufficientemente chiaro, dice Fabio. Ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Subito arriva un commento a quello che diceva il professor Bruni. Marco scrive su WhatsApp: il professore dice che Cameron non aveva scelta quando ha indetto il referendum, è un'affermazione superficiale, crede che la Thatcher avrebbe pensato e fatto lo stesso, non credo perché lei era una leader. Sicuramente era una leader, Marco dice Cameron un pagliaccio, però chiaramente i tempi sono anche decisamente diversi. 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte per scrivere i vostri commenti sui fatti della giornata, che vi ricordo molto velocemente, per chi non avesse acceso puntualmente alle 21, sulle banche. Renzi dice: l'accordo sulle banche con le regole attuali è in realtà a portata di mano, se ne è discusso a Bruxelles in questo vertice dei ministri economici. Poi ne abbiamo appena parlato, Theresa May sarà la premier, succederà a David Cameron nel Regno Unito, dice: la Brexit sarà un successo. Poi c'è Renzi, che oggi ha parlato di diverse cose in questa intervista al Corriere, e ha anche detto che è contro lo spacchettamento, questa ipotesi di spacchettamento dei quesiti referendari. E poi il presidente americano Obama a proposito della strage di Dallas, che domani sarà ai funerali degli agenti uccisi. Europa 24 notte. Tempo di vacanze anche per i celiaci: più facile sarà viaggiare in Europa. Dal 20 luglio entrerà in vigore in tutti i paesi, anche in Italia, il nuovo regolamento comune. I prodotti senza glutine non saranno più considerati dietetici. Entra in vigore il regolamento europeo del 2013 che riguarda gli alimenti a fini medici speciali. Tra le principali novità introdotte dalla Commissione europea, l'abolizione del concetto di alimento dietetico per i prodotti per celiaci, quelli per diabetici e quelli senza lattosio, che non saranno inclusi nel campo di applicazione di questo regolamento, ma verranno disciplinati dal regolamento del 2011 sull'etichettatura dei prodotti e dal nuovo regolamento UE del 2014 sulle informazioni da fornire ai consumatori riguardo all'assenza di glutine, a sua volta in vigore da luglio. Dicitura a parte, però, non ci saranno grossi cambiamenti per i consumatori europei, come rassicura Caterina Pilo, direttore generale dell'Associazione Italiana Celiachia. Per rassicurare i celiaci che ci ascoltano, nella sostanza non cambia nulla per i celiaci italiani. Il Servizio Sanitario Nazionale continuerà ad assistere la terapia per i celiaci, dando in erogazione i prodotti e gli alimenti senza glutine di cui i celiaci hanno bisogno. Nella fattispecie, da pochi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che ha consentito di cambiare il nome di questi alimenti. Il regolamento 609 annulla, abroga il concetto di dietetico e quindi anche di dietetico senza glutine, ma oggi attraverso questo decreto il Ministero della Salute ha modificato il nome di questi alimenti, che d'ora in avanti si chiameranno prodotti specificamente formulati per celiaci senza glutine. La dicitura specificamente formulato per celiaci potrà essere utilizzata esclusivamente per gli alimenti sostitutivi, dove siano cioè tradizionalmente presenti ingredienti a base di glutine che vengono sostituiti con altri ingredienti senza glutine oppure deglutinati. Non potrà invece essere utilizzata per alimenti a base di ingredienti naturalmente privi di glutine. Questo è un chiarimento molto importante. L'Associazione Italiana Celiachia è sempre stata molto chiara da questo punto di vista, non volendo che i prodotti naturalmente privi di glutine, che il celiaco deve considerare liberi, a sua disposizione, deve farne uso per avere una corretta alimentazione, no, noi non abbiamo mai voluto che fossero indicati come senza glutine, perché può far insorgere il dubbio nel celiaco che il prodotto uguale a quello etichettato senza glutine ma che non ha la dicitura possa essere invece contenente glutine. Quindi è un'importante informazione che ha chiarito questa norma. Etichette diverse, insomma, ma stessi prodotti, e nessuno svantaggio per i celiaci. Sicuramente gli svantaggi temuti, e cioè che il regolamento comunitario potesse mettere in discussione l'assistenza riservata ai celiaci, è decisamente superata, perché l'impianto di tutele resta invariato e abbiamo una ancora maggiore specifica nelle etichette. Alessandra Iannuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In in collaborazione con Euronet Plus. Sempre i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note oppure al 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. Scrive per esempio Vito: è un continuo prendere in giro noi e questi poveri immigrati, non cambierà mai il sistema, dice Vito da Bronte, provincia di Catania. Parlavamo prima appunto di questo avvicendamento tra i primo ministro uscente David Cameron e colei che lo sarà dal 13 luglio in Gran Bretagna, Theresa May. C'è stato un altro avvicendamento in Vaticano, una cosa diversa naturalmente, cambio della guardia alla guida della sala stampa vaticana. Dal 1 agosto padre Federico Lombardi, che è in carica da 10 anni, lascia la direzione a Greg Bark, americano, finora è stato suo vice, ma la vera novità è che per la prima volta ci sarà una vice direttrice, quindi una donna, Paloma Garcia Oveiero. Che figura è, che novità è? Lo chiediamo al nostro vaticanista Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao, ciao Roberta. Sì, la novità è importante perché la figura del direttore della sala stampa è una figura pubblica, lo fu tantissimo Navarro Valls con Giovanni Paolo II, Lombardi a modo diverso lo è stato perché ha gestito un periodo, questi ultimi 10 anni, ricco di crisi e di continui colpi di scena, di fatti inediti come le dimissioni. Appunto, come dicevi, c'è stato questo avvicendamento, 10 anni, devi considerare che in Vaticano ogni incarico più o meno dura 5 anni, lui ne ha fatti 2, quindi anche se non è così rigida, quindi è stato deciso questo avvicendamento. Sì, arriva un giornalista americano, membro numerario dell'Opus Dei, che da alcuni anni già lavorava nella sala stampa della Santa Sede e quindi, ma come dicevi appunto, la novità è una donna, è una laica, una giornalista spagnola, madrilena, giovane, quarantenne, perché ci sono in sala stampa delle donne, alcune religiose, ma comunque mai con incarichi diciamo di vertice, e quindi questa è diciamo una novità importante. Senti, e lei che figura è? Hai detto una brava giornalista spagnola. Tu... Sì, è una brava giornalista spagnola, lei da alcuni anni, 5 anni, è corrispondente di una radio, proprio, quindi è una tua collega, diciamo, una corrispondente della radio spagnola, in questo caso la radio della CEI spagnola, quindi la radio cattolica, però segue l'Italia, segue la politica, non è che diciamo così, è una giornalista religiosa, una giornalista a tutto campo che però lavora per una testata diciamo cattolica, ma questo però appunto ci ho lavorato tante volte insieme, ho fatto tutti i viaggi del Papa, la conosco benissimo ed è una giornalista diciamo così che sta sul campo e parla il cinese tra l'altro, questa è una novità che insomma non da poco, ecco. Senti, da poco. Per chiudere Carlo Marroni, però è sempre in linea con queste aperture che sta facendo Papa Francesco, quindi anche in questo senso di scegliere una donna come sì, dice. Allora devo dire una cosa rapidamente, Padre Lombardi era, nonostante avesse 74 anni, era un uomo di grande apertura, la sua impostazione è stata di fortissima trasparenza, questo anche in posizione di minoranza dentro la curia, lui era per parlare, per raccontare i fatti per quanto possibile e quindi questo era in linea sia con Benedetto, contrariamente a quello che è stata la sua percezione, sia con Francesco. Qui si continua e naturalmente il fatto che sia una donna, e lei oggi nella sua dichiarazione ha detto spero che non sia stata nominata perché donna ma in quanto brava, però diciamo è comunque un segnale positivo per noi giornalisti che lavoriamo sul campo tutti i giorni, anche qui dentro il Vaticano. Certo, grazie Carlo Marroni. Allora, buon lavoro. Grazie a te, Roberta. Ciao Carlo. Luciano, per chiudere un ultimo messaggio, era ora di parlare di questo, dice degli immigrati intanto che possano rendersi utili, chi vuole restare in Italia deve imparare meglio la nostra lingua e poi chi vuole imparare un mestiere bisogna fargli scuola e formarli. Ci lasciamo per ritrovarci brevemente alle 22:00.